La cosa vera di questa giornata è capire e sapere se avremo questo segnale di speranza che è rappresentato dal fatto di centinaia di migliaia di persone che escono di casa per andare a votare, per fare un partito, non avendo l'obbligo a farlo, non avendo ricevuto nessun invito istituzionale, ma solo un atto di partecipazione individuale, come quella di queste persone che sono dalle 7 stamattina a fare gli scrutatori. Sono 70.000 in tutta Italia. Insomma, è molto bello in questo momento. Se quello che accade è quello che finora mi è stato raccontato, è una cosa sulla quale stasera varrà la pena di fare qualche riflessione impegnativa. Per me il fatto che stiano andando a votare tante persone e che ci siano queste file a tutti i seggi è già una bellissima notizia. Per me è la realizzazione del sogno di una vita politica. Da sempre speravo che nascesse prima o poi questo partito, e sta nascendo, e oggi per me è anche una giornata importante perché è il primo voto di mia figlia.